9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Sorpresa, sorpresa, oggi abbiamo fatto una variante ai Doors. Non perché i Doors, come vedete, erano ingiusti da parte mia, visto lo spread, il ballo che è cominciato in questi giorni, che è la traduzione del fatto che il mercato ha capito che bisogna dare la spallata ad agosto, perché tanti sono i segnali che, come una muleta rossa di fronte alle corna del toro, sono stati dati ai mercati, perché i mercati capiscano che si possa fare così, è giusto fare così. Tanto i tedeschi si sono presi fino a metà settembre per dire se l'ESM è costituzionale, eccetera, eccetera, eccetera. E allora il vengo anch'io, no tu no, diventa il problema fondamentale. Cioè, il problema fondamentale diventa: ma siamo al punto in cui per la Grecia, che pare ormai debba andare fuori, ma anche per l'Italia e la Spagna, il vengo anch'io, no tu no, nell'euro sia finito e il no tu no sia la vera risposta? Ecco, iannacci, mettiamola a ridere, ma di fatto è un po' così, perché siamo alla tenuta dell'euro in quanto tale, perché se voi sommate la Spagna e l'Italia, l'Italia vale 19% dell'euro area, la Spagna vale 12%, con la Grecia siamo un terzo dell'euro area. Non è che un terzo dell'euro area se esce nel trauma dopo così tante manovre di correzione, dopo recessioni così profonde inflitte al reddito, al patrimonio delle famiglie, delle imprese, è che e si grida aiuto aiuto e quelli ti rispondono no tu no, voi capite bene che è l'euro in quanto tale che non c'è più. Becchiamoci ancora qualche secondo per sorridere su questa bella affermazione. Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera, vengo anch'io. Va bene, va bene, temevo che fosse la strofa in cui si diceva che si poteva andare tutti al tuo funerale, allora ho voluto andarci sopra con la voce, perché al funerale non voglio arrivare prima che voi, qualcuno di voi giustamente dica che poi sono io che porto male. Ma come vedete, le ragioni di scetticismo su questa Europa erano fondate. Allora, siamo al punto tale in cui dopo la giornata di ieri, l'avete visto, il nostro spread sopra 520, quello spagnolo sopra 630, fermati poi dalla misura delle autorità di mercato di divieto, la vendita hanno scoperto, però quei divieti sono tali che poi il mercato li riaggira, e avete sentito dai colleghi di GR come la tensione sullo spread resta elevato, cioè rimaniamo sopra quota 500, e noi sopra quota 500 per 2-3 settimane arrivano poi delle misure obbligate da prendere. In cosa possono consistere? Ve l'ho detto mille volte, l'ipotesi è che i tedeschi, e d'accordo con la Francia purtroppo, abbiano concordato già col Fondo Monetario che cosa può aspettarci. La Francia è la chiave di volta ancora una volta, perché se Hollande mantiene fermo l'impegno che ha assunto il 28 nell'Eurovertice in cui l'Italia ha rischiato il veto per passare poi il salva spread, che non c'è stato comunque, allora l'ipotesi è che nel breve sia la BCE, scrivono oggi molti giornali, scrive il Sole 24 Ore, il suo direttore Roberto Napoletano, solo la BCE nel breve, in questo mese di agosto, ha la possibilità di poter intervenire comunque limitatamente per vincere l'ondata dei mercati a sostegno degli euro deboli, in quanto con un'interpretazione un po' sul filo dei suoi poteri secondo il trattato europeo, la BCE non solo ha il compito di intervenire, e su questo nulla questio, a difesa della stabilità della moneta, ma deve intervenire anche a difesa della stabilità finanziaria dell'euro area in quanto tale, e questa volta è l'euro che è minacciato e potrebbe intervenire. Ma se i francesi, la Banca di Francia, non sono sulla linea Draghi da questo punto di vista, è un po' difficile immaginare che Draghi possa sfidare da solo il no della Bundesbank, che si becca ieri un outlook negativo, ieri sera stanotte di Moody's, Paradise, l'avete sentito dai colleghi del Regionale Radio, e se lo becca insieme all'Olanda e al Lussemburgo, quindi è una specie di primo passo per l'abbassamento della fiducia tedesca. E prima di presentare l'ospite, un parlamentare tedesco a cui chiediamo di spiegarci un po' l'atteggiamento nel suo paese, io faccio notare che c'è un côté molto interessante anche sulla stampa italiana, ed è un côté politico su che cosa sta avvenendo per effetto di questa accelerazione dell'attacco dei mercati in questo fine luglio, perché l'interpretazione è quella di andare a votare prima. Cioè, se voi vedete, il foglio è sicuramente alla testa di questa lettura, e c'è una richiesta firmata da Giuliano Ferrara che dice: novembre il voto sotto la pioggia, insomma tutti insieme con Monti, è un voto presto in maniera tale che nessun partito nuovo entri in Parlamento, tutto resti così com'è, i seguaci del Cavaliere, il PD, nessuno con la maggioranza e tutti uniti sotto Monti. Questa è, in parole povere, l'interpretazione. Segnalo che sul foglio ci sono comunque interventi interessanti, soprattutto quello ai miei occhi di Paolo Savona e Michele Fratianni, che chiedono di votare oramai su questo euro che non regge, cioè chiedono un vero e proprio referendum, e chiedono il consolidamento del debito pubblico con intervento anche di capitale, patrimonio dei privati, a garanzia di un allungamento delle scadenze. Questa è sicuramente una questione un po' divisiva. Secondo me, io sono contrario, assolutamente contrario all'utilizzo del patrimonio dei privati già approvati nel reddito per il sostegno del debito pubblico. Io sostengo che bisognava vendere e non lo si è fatto, e questa è la colpa che i mercati ci impongono: vendere patrimonio pubblico italiano. Neanche il governo Monti l'ha fatto. Bisognerebbe decidersi a farlo presto, ora, prima che ci venga imposto, ma comunque è interessante questa tesi. Tenete conto che la tesi del votare presto è in qualche misura anche il titolo del giornale. Il titolo del giornale prende a pernacchia un po' il vecchio titolo del Sole di Roberto Napoletano, fate presto, ve lo ricordate, a novembre, quando si trattava di cambiare governo. Ed è anche il giornale di oggi, dice fate presto, e sotto c'è Feltre che dice fate presto perché dovete dire la verità, cari professori, questo euro non regge. Però la conclusione del fondo di Feltri, sia pur meno, diciamo così, ferrariana, è che ci vuole un programma comune, quindi è comunque una conclusione montiana che non esclude le elezioni. Libero è un'altra anima della destra italiana, ed è contrario, perché dice follie tecniche, lo spread ci porta al voto, ed è contrario esattamente all'ipotesi invece indicata da Ferrara e dal giornale. Ma questo sferragliamento verso un voto prima, con un cambio di legge elettorale che non consenta nessuna novità in Parlamento, cioè consenta di non andare dentro a chi viene dal basso e non ne può più della vecchia destra, della vecchia sinistra e anche un po' dei tecnici, con tutto il rispetto per loro che hanno minori responsabilità, è evidente che la sferragliante risposta di questa sempre meno affidabile classe politica italiana all'eurocrisi. Ce ne occuperemo più avanti, ma intanto torniamo alla faccenda di fondo. E la faccenda di fondo è: ma la Germania in realtà in questo mese di agosto, con il rinvio a settembre del giudizio da parte della Corte di Karlsruhe della costituzionalità dell'SM, che tutti i mercati interpretano come un via libera alle spallate, con dichiarazioni di nuovi membri di prima fila, sia dell'SPD, Pierre Steinbrück, sia dei liberali, Rösler, sia dei democristiani, sia dei cristiano-sociali, che in questi giorni sono tornati a dire fuori la Grecia, basta meccanismi di solidarietà, e anche il cancelliere Angela Merkel ha detto io non sono certa che l'euro nell'attuale composizione ce la possa fare. Ecco, in realtà i tedeschi che cosa davvero si prefiggono? Una depurazione, la Grecia fuori, e se l'Italia e la Spagna sono in grado di fare ulteriori sforzi aggiuntivi rispetto a quelli che hanno fatto, bene, altrimenti fuori anche per loro, oppure no? E con quali danni per il loro commercio intraeuropeo? Ecco, questa domanda noi la rivolgiamo a Manfred Kolbe. Manfred Kolbe, lo ricordate, lo abbiamo già avuto ai nostri microfoni, un deputato al Bundestag della CDU-CSU, parla italiano, per questo ovviamente ve lo proponiamo, e chiediamo a Manfred Kolbe, ringraziandolo e salutandolo per essere qui con noi anche oggi, Questo stato d'animo che sembra riemergere dopo che qualche settimana fa la Germania era sembrata rassicurante, dire no, si va avanti tutti insieme, anche se molto bisogna fare, perché i paesi che non hanno abbastanza rigore se ne diano di aggiuntivo, sembra invece che torni a prevalere l'aria del dire vabbè, adesso basta, dividiamoci. È corretta questa impressione? Lei stesso, onorevole Kolb, ha votato, è stato molto critico negli aiuti aggiuntivi, ma così non si rischia di fare il danno di tutti. Buongiorno allora. Buongiorno a tutti gli ascoltatori italiani dalla Germania. No, dobbiamo risolvere questa crisi insieme, ma l'avvertimento di Moody's dell'altra notte, cioè la prospettiva negativa anche per la Germania, e la Germania rischia di perdere il triple E, dimostra una cosa, che anche le forze della Germania sono limitate. La Germania da solo, insieme con l'Olanda e la Finlandia, non può sorreggere tutto il debito europeo, e questo ci porta alla conclusione che c'è una sola soluzione per la crisi del debito europeo, è quello che gli stati europei devono ridurre il debito pubblico. Non c'è alternativa alla riduzione del debito pubblico, e questo significa risparmiare. No? E ci sono diverse vie per farlo. C'è il patrimonio pubblico, c'è il patrimonio privato, sono le riforme strutturali, ma non esiste alternativa alla riduzione del debito pubblico, altrimenti tutta l'Europa va in bancarotta. Oh, per venendo all'Italia, siccome siamo stati colpiti nelle settimane scorse perché ci sono stati interventi e papers, studi, anche abbiamo visto quello di W, il secondo istituto economico tedesco, che ha fatto una riflessione proprio su come l'Italia possa uscire dal suo eccesso di debito pubblico, e ha parlato di un fondo pressoché obbligatorio che Europa e Fondo Monetario dovrebbero imporre all'Italia, visto che in tanti anni promette di far diminuire il suo debito pubblico, ma in realtà ha alzato le spese, ha alzato le tasse, il debito pubblico non scende mai. E poi ha aggiunto anche un'ipotesi di prestito forzoso, cioè di una patrimoniale per i privati. Ha fatto anche l'indicazione di una soglia di patrimonio tra i 230 e i 250 mila euro di patrimonio a testa per gli italiani, compreso il valore del mattone a valore di mercato, dicendo beh, la somma di queste due cose potrebbe oggi rendere credibile ciò che le promesse italiane non hanno mai mantenuto, cioè l'abbattimento del debito pubblico. A suo giudizio era un'esercitazione teorica, o dobbiamo immaginare che c'è una specie di consenso che si sta formando, sommando da una parte il no della Bundesbank a interventi della BCE, dall'altra le ultime opinioni espresse dal cancelliere Angela Merkel, le espressioni di un ex molto autorevole presidente della BDI, della Confindustria tedesca, che ha detto qui il rischio oramai è di fare un euro di serie A e serie B, mentre fino a poco fa la Confindustria era molto a favore del fatto che l'euro rimanesse unito. C'è una specie di convergenza che si sta creando, lavorando anche un po' ai fianchi i francesi e il Fondo Monetario, per dire noi tedeschi abbiamo fatto il possibile, ma se l'Italia ancora non si regge da sola bisogna somministrargli una ricetta obbligatoria di abbattimento del debito. Lei che pensa? Beh, il debito lo dobbiamo ridurre tutti quanti, anche la Germania ha 2 milioni di euro di debito, questo è troppo alto. E ogni Stato deve decidere come riduce il debito. In Italia lo devono decidere gli italiani, o vendere il patrimonio pubblico, o il prestito forzato del patrimonio privato, o anche delle riforme strutturali. Per esempio, l'Italia ha il sistema politico-amministrativo più costoso d'Europa. L'Italia ha privilegi non più tollerabili nel tempo d'oggi. Per esempio, governatore della Banca d'Italia guadagna il doppio del presidente del Bundesbank. Questo non è giustificato, e sono cose che io non posso giustificare davanti ai miei elettori. Cioè, ci vogliono delle riforme strutturali in Italia, ma ci vogliono anche d'altrove, e queste riforme sono necessarie per la sopravvivenza dell'Europa, perché un'Europa vicino alla bancarotta non viene più rispettato nel mondo. Un'Europa debole non può difendere i suoi valori, che sono i diritti umani, la democrazia. Se chiediamo aiuto a Putin, a Pechino, proprio non siamo più in grado di difendere i nostri valori. E questo dobbiamo risparmiare in Europa, non c'è alternativa. Quando lei dice, e sono completamente d'accordo, di non essere in grado di giustificare di fronte ai suoi elettori e ai contribuenti tedeschi che vi siano così numerosi incarichi al vertice degli uffici pubblici, amministrazione pubblica italiana, lei ha citato il governatore, ma lo stesso vale per il capo della polizia, per il capo del commissario dell'INPS e così via, cioè noi abbiamo dei vertici pubblici che guadagnano dai 4 ai 6 volte quello che si guadagna nei più grandi paesi avanzati, Stati Uniti compresi, che ancora meno capisce, ancora più grave, ecco, che noi abbiamo presidenti di piccole regioni italiane che guadagnano 2-3 volte quello che guadagna il presidente degli Stati Uniti. Allora, quando lei dice questo, secondo me è una grande verità da ripetere agli italiani per fare capire che la colpa non è dei tedeschi, ci sono dei meccanismi che tutti devono prendere in considerazione, che devono essere di convergenza. Ma quando dice questo, dice, per manifestarcelo, come sembra dai sondaggi che fanno grandi quotidiani popolari come il Bild, penso il Bild, ma in questa settimana ho visto che i toni anche di quotidiani di indirizzo diverso, molto meno per così dire di pancia come Süddeutsche Zeitung, che è più di centrosinistra per così dire, e così via, li ho visti molto allineati nel dire che la misura è colma verso i sud europei. Ecco, ce lo dice per farci capire che per gli elettori tedeschi la misura è veramente colma, e questo significa al punto tale di assistere a rotture dell'euro, perché se la misura è colma non si può più far niente se non lo capiscono da solo gli italiani, oppure è una maniera giusta per ricordarci che bisogna fare ancora di più, perché l'impressione è che questa volta, in questo mese di agosto, senza reti di cadute, beh, l'euro potrebbe davvero prendere la strada della rottura. Lei che dice? Beh, no, i tedeschi sono sempre europei. Nel XXI secolo non c'è l'alternativa all'Europa unita. Ogni Stato europeo, anche se la Gran Bretagna ancora non l'ha capito, non può giocare un ruolo solo nel mondo. Solo un'Europa unita può giocare ancora un certo ruolo nel mondo. Cioè, perciò siamo europei convinti, ma non vogliamo il suicidio finanziario dell'Europa. E questo è quello che sta accadendo al momento. Noi da 2 anni combattiamo la crisi del debito con sempre nuovi debiti, e questa è la convinzione dei tedeschi, e credo che questa convinzione di fondo è giusta, cioè i tedeschi vogliono l'Europa ma vogliono la riduzione del debito, perché questa è l'unica soluzione per la crisi. Ah, temo che la linea sia sparita, vediamo se riusciamo a riaccaparla. No, è tornato, prego, prego. Sì. No, era arrivato al punto in cui diceva, per i tedeschi, il giudizio dei tedeschi è che insomma il debito deve rientrare comunque, ma restano europei. Cioè, lei dice, no, siamo europei, ma non vogliamo il suicidio finanziario dell'Europa. Ecco, ma fuori dai denti, secondo lei, capisco che questa diventa una materia, diciamo, più scivolosa, perché chiedere pareri su questo può essere impegnativo politicamente. Ipotizziamo che nelle prossime settimane, con l'Italia che resta sopra quota 500, si ponga il problema di una degenerazione dell'eurocontesto troppo forte per essere governabile con gli strumenti attuali. Dopo l'eurovertice del 28 ci vuole tempo per implementare l'ESM e non siamo preparati. Che a quel punto, ipotizziamo, la BCE dica, trattato alla mano, io non solo ho il compito primario di vigilare sulla stabilità della moneta, ma ho un compito parallelo, secondo il trattato, che è anche quello di vigilare e di intervenire dunque se la stabilità finanziaria dell'intera euroarea è sotto attacco. Ipotizziamo che la BCE allora dica, siamo in quella circostanza, sappiamo già che la Bundesbank con Jens Weidmann è contraria al fatto che la BCE si metta a quel punto a comprare titoli, cioè è contraria al fatto che l'interpretazione dei poteri attribuiti alla BCE configuri l'ipotesi che la BCE possa farlo, perché la Bundesbank su questo è già stata chiarissima con Weidmann, col suo presidente. Ma in quel caso, secondo lei, la BCE potrebbe e dovrebbe farlo, oppure ha ragione la Bundesbank a dire non si fa, perché a furia di non fare, e poi il mercato ha l'impressione che dando spallata, alla fine qualcosa succede, e siamo al punto con l'Italia al 19% del PIL dell'euroarea, insieme alla Spagna siamo 19 e 12, fanno più del 30%. Lei sarebbe perché la BCE intervenisse, oppure meglio di no? Le dico che chiaramente no, se la BCE comincia a stampare moneta, questa sarà la fine dell'euro come una moneta stabile, e allora i tassi di interessi si alzano per tutti, e allora anche la Germania paga il 6-7%, questa è la fine dell'Europa. No, no, veramente non è una soluzione. Dobbiamo trovare la soluzione, questo è solo una moneta stabile, e questo significa che la BCE non può stampare moneta, no? Indefinitamente. Perciò sono completamente contrario a questi aiuti, non c'è riforma, non c'è alternativa alle riforme strutturali. Lei capisce però che... No, io ho sempre l'impressione che l'Italia ti cerca un po' di evadere. Di evadere, lei dice gli italiani, no, come sempre non voglio... Però attenzione, guardi che per milioni di italiani che hanno la recessione, la recessione italiana è più grave di quella spagnola, che è tutto dire, non avendo, diciamo così, fino quasi un quinto del PIL fatto di mattone da dover rientrare, eppure la recessione italiana, per motivi precedenti all'euro e che hanno a vedere con la nostra bassa competitività, però la nostra recessione è più pesante. Agli occhi di milioni di italiani che hanno perso il lavoro, come ai milioni di imprenditori che sono magari poi concorrenti quando esportano di quelli tedeschi, incorporare aggravi del credito per le poche banche che lo danno ancora di 400-500 punti base rispetto ai concorrenti tedeschi, neanche per quelli italiani lì questa è l'Europa. Però questo è un punto di fondo, perché dopo due anni di questo meccanismo, purtroppo nel nostro paese, e lo dico Manfred Kolbe conoscendola e stimandola, cioè non sto dando colpa di niente, ma la cosa terribile è che dopo due anni io per primo registro che nel mio paese oramai cresce, monta l'ondata di protesta di chi dice: ma il diavolo questo euro che non ci fa stare nelle stesse condizioni come se i colpevoli fossimo noi, quando i colpevoli fossimo noi significa i contribuenti italiani, le famiglie italiane, le imprese italiane che non hanno deciso la politica. Non c'è un po' un rischio, questa è la domanda finale che le faccio prima di salutarla e ringraziarla, non c'è un po' un rischio che da voi come da noi, cioè nei paesi più virtuosi e forti, come in quelli più deboli, a prevalere oramai nella incertezza di come si guida una macchina così complessa dopo due anni e mezzo di mancate risposte, a prevalere siano solo le ondate contrapposte da una parte di chi dice, non so, mi viene in mente Theo Sarrazin che dice l'euro è stato un errore come aprire agli immigrati islamici, e dall'altra parte da noi chi dice ma basta con questo euro pugno di ferro dei teutoni, torniamo alle svalutazioni, bla bla bla, perché un po' nei sondaggi nei paesi si vede questo, oppure no? Secondo lei c'è la possibilità di dare una risposta ragionevole con tanta gente che sta male protesta? Beh, ma la situazione è la stessa in Germania. In Germania non abbiamo mai avuto una maggiorità popolare per l'euro. Se lei avesse avuto il voto popolare in Germania, il marco non sarebbe mai stato abolito, no? È stata la decisione della politica di Kohl e dei partiti di maggioranza, e questo sentimento anche qui cresce, ma credo che dobbiamo continuare il lavoro per l'Europa, perché come ho detto non c'è alternativa all'Europa, ma non c'è anche un'alternativa all'euro stabile, e credo che l'Italia starebbe molto molto molto meno bene senza l'euro. Non credo che il ritorno alla lira salverebbe l'Italia, no? L'Italia avrebbe un'inflazione, pagherebbe prezzi orrendi per il petrolio, per le importazioni. Non è la soluzione sono le riforme strutturali, e alla fine nessuno può spendere più quanto sono le entrate. Allora, io considero questa conclusione di Manfred Kolbe aurea. Credo che in Italia oramai la condividano in pochi. Mi fa terrore e ribrezzo, ve lo sottolineo, ribrezzo che la risposta della politica italiana di fronte a questa difficoltà, dopo non aver fatto tutto quello che aveva fatto prima, io su questo la penso come Kolbe, dopo non aver abbattuto il debito pubblico con gli attivi patrimoniali dello Stato che l'ha fatto, e pensano invece di mettere ancora le mani nelle tasche dei cittadini e nelle nostre, dei sudditi quali siamo, che in tutto questo la politica dica andiamo uniti a votare per rimanere tutti uniti e far rimanere Monti così se la vede lui eccetera eccetera, io la considero l'ennesima capitolazione indegna della mancanza di un senso della storia oltre che della responsabilità per gli errori gravissimi che hanno condotto. Mi dispiace per Giuliano Ferrara, la pensiamo esattamente all'opposto. Allora, ve lo ricordate il vengo anch'io no tu no? Ecco, il vengo anch'io no tu no rischia di essere un pochino, temo, il refrain aggiuntivo che dovremmo utilizzare in queste settimane, perché il punto è diventato un po' che cosa l'Italia vuole fare di se stessa. Devo dirvi che anche le parole di Monti a Mosca ieri, che tendono un po' politicamente a dire che la colpa è degli altri, e perché manca lo scudo europeo, e perché il 28 non hanno dato retta a lui che aveva messo il veto. Insomma, sa un po' di vecchia politica. Io capisco, perché non è mai molto facile, è facile criticare da fuori, come sto facendo io. Quando si ha la responsabilità e non si è creato un guaio di dover affrontare le conseguenze, è un po' complicato poi doversi assumere la responsabilità di fronte a tutti e dire: cari italiani, la verità è che noi la credibilità non ce l'abbiamo. Dopo 20 anni che proponiamo di abbattere il debito pubblico con gli avanzi primari e con la finanza pubblica in regola, e non lo abbiamo fatto, perché il debito pubblico è cresciuto come sono cresciute le spese e le tasse. Però io penso che la verità, soprattutto quando non si hanno le responsabilità del passato, sia meglio, perché altrimenti la questione diventa: vengo anch'io, no tu no, per l'Italia in Europa, per la vecchia politica che tenta ancora di rimpannucciarsi e di fare una riforma elettorale truffa per impedire magari a chi sta fuori e protesta entrare nell'arengo della rappresentanza, e con tempi stretti vedremo. Ma il vengo anch'io, no tu no, è una questione che poi si applica a tutta la scala di problemi italiani. Facciamo un altro esempio, e questo esempio ci porta dall'Italia al rischio in Europa a uno dei fronti avanzati invece dei problemi italiani, perché ci porta alla città di Napoli. Città di Napoli, sapete, dove il sindaco e De Magistris è uno dei grandi capoluoghi in cui il PD sbatté la testa contro il muro alle primarie, come è avvenuto a Palermo, come è avvenuto a Genova, come è avvenuto a Cagliari, come è avvenuto a Milano, eccetera eccetera, perché il centrodestra sa come sta, vergognosamente piegato sotto le sue orrende responsabilità personali e politiche. Ma anche il PD nel centrosinistra non è che stia molto bene, sta diversamente male, ecco, diciamo così. E allora a Napoli c'è anche lì una storia che non voglio ridurre al vengo anch'io, no tu no, ma che è una storia di verità e responsabilità, cioè come si fa ad affrontare un guaio molto grande che si è ereditato nei conti pubblici, quando si è in una delle trincee più avanzate, da una parte del sud che boccheggia, che ha enormi problemi di efficienza pubblica, che deve inventarsi delle risposte per centinaia di migliaia di persone che sono incolpevoli dell'inefficienza dei servizi pubblici, degli malgoverni, della corruzione, del clientelismo, eccetera eccetera. Ma quando ci si arriva, poi bisogna farlo, e bisogna usare il linguaggio della verità. E io sbaglierò, ma la vicenda che ha portato l'assessore al bilancio del comune di Napoli a essere estromesso dalla giunta De Magistris è un po' la questione del vengo anch'io, no tu no, cioè bisogna dire la verità fino in fondo e fare anche cose sgradevoli, che bisogna fare quando si eredita una situazione sgradevole, dicendo alla gente del perché si è purtroppo costretti a farla. Oppure bisogna a quel punto mettere avanti le ragioni del consenso popolare e non dirla proprio tutto da verità, col rischio che poi vengo anch'io, no tu no, è la risposta. Ecco, chiedo all'ex assessore al bilancio del comune di Napoli, che è Riccardo Rialfonso. Riccardo Rialfonso insegna economia politica all'Università del Sannio, è uno insomma dei punti di riferimento della politica economica italiana quando si tratta di altra politica, cioè di quella keynesiana di sinistra, per intenderci, autore di libri, pubblicazioni, papers da questo punto di vista. Se la vicenda che lo ha visto andare ai ferri corti e poi estromessa col sindaco De Magistris è un po' questa, cioè c'è il bilancio dell'amara verità da dire alla gente, di misure da assumere quando non si è responsabili dei guai ereditati per affrontarli, è meglio dirla comunque la verità e fare pulizia? Oppure anche la nuova politica diventa un po' vecchia politica e dice: ma non mi rompere troppo le scatole, non esagerare, caro Rialfonso. È un po' questa la faccenda tra lei e De Magistris? Beh, sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, direi proprio di sì. Io sono stato assessore a bilancio nella precedente giunta, la giunta Iervolino. Mi dimisi dopo meno di un anno perché rispetto alla vicenda di un sistema clientelare, di un sistema di sprechi, di inefficienze, insomma, che caratterizzava quella giunta, il sindaco, che pure mi aveva dato tutte le assicurazioni all'inizio, non le volle sapere di mettere mano rispetto a quel sistema. Quindi io mi dimisi, feci una battaglia, scrissi un libro e feci una battaglia contro quel sistema, e Luigi De Magistris mi chiese, quando aprì la sua campagna elettorale all'inizio dell'anno scorso, mi chiese di dargli una mano, e io, diciamo, l'ho affiancato in quella battaglia. Io ho scritto per lui il programma elettorale, ho scritto addirittura l'appello degli studiosi per sostenerlo, l'ho coinvolto in 1000 presentazioni del mio libro, insomma l'ho sostenuto. E quindi poi, una volta che lui vinse quella battaglia elettorale nella primavera estate dell'anno scorso, all'insegna degli slogan, diciamo, della trasparenza, della veridicità delle voci di bilancio, della legalità, del cambiare Napoli, eccetera, lui mi chiese di fare l'assessore al bilancio. Il punto purtroppo è che però una volta entrati nella gestione, nell'amministrazione cittadina, io naturalmente gli ho riproposto la mia impostazione, cioè gli ho detto molto chiaramente che il Comune di Napoli era, gli ho ribadito, diciamo, molto chiaramente che il Comune di Napoli era sull'orlo del dissesto e che o si intraprendeva la strada del dissesto, quindi facendo un'operazione molto chiara e trasparente, oppure con un'altrettanto operazione chiara e trasparente di verità rispetto alle amministrazioni del passato, si prendeva la strada di misure molto incisive, molto serie, che prevedevano una serie di tagli di spese inutili, una serie di diciamo anche di interventi molto radicali sulle società partecipate, una serie di diciamo di reimpostazioni, di riorganizzazione della macchina comunale, quindi dissesto oppure strada incisiva del mettere mano agli sprechi, alle clientele del passato e azzerare tutto. Il problema qual è stato? Che purtroppo il sindaco, rispetto a queste due alternative che appunto facevano i conti in maniera molto trasparente entrambe con gli errori del passato, ha scartato la strada del dissesto, però poi di fatto non ha sostenuto nemmeno questa strada del risanamento, nemmeno la strada del risanamento con azioni incisive, e quindi io mi sono trovato a fare una serie di battaglie per far passare nelle diverse manovre che abbiamo fatto in questi mesi, appunto una serie di azioni di risanamento, tagli della spesa molto forti, interventi sulle partecipate con alcune dismissioni, riorganizzazioni delle partecipate stesse, però sempre come dire, conquiste estenuanti, diciamo, di conflitti estenuanti, e in realtà anche in misura, diciamo, non adeguata, nel senso che noi abbiamo fatto una serie di misure importanti, abbiamo preso una serie di misure importanti, ma dal mio punto di vista non sufficienti. Quindi la tensione è cresciuta. Io ho è andata avanti nel tempo in questi mesi, fino a che appunto la tensione da me il sindaco non l'ho portato a sostituirmi, chiedendo al nuovo assessore, diciamo, degli sforzi di immaginazione, di politiche più votate alla fantasia, diciamo così, e meno al risanamento. Questo è un punto che io considero di fondo, e lo considero di fondo perché stiamo parlando proprio col professor Alfonso, cioè capite, almeno per chi ha un'idea di chi sia e che scuola appartenga, capite, il problema non è che il sindaco di Napoli muove un appunto di questo tipo, per favore fammi delle politiche più di immaginazione, metti all'opera la fantasia perché stai esagerando con i risparmi da 150 milioni che hai fatto, stai esagerando col fatto che mi hai creato il cronoprogramma per mettere insieme le tre diverse società dei trasporti in maniera tale che diventino una a Napoli entro fine anno, stai esagerando perché mi hai chiesto gli interventi di risanamento sulle Terme di Agnano, la mostra d'oltremare, la società Stoa, Gesac e così via, cioè la lunga litania delle partecipate pubbliche utilizzate a fini clientelari e per voti politici a Napoli nei decenni. Ma non sta facendo il sindaco De Magistris queste obiezioni, che ne so, a un assessore che appartenga a una scuola di spietati tagliatori, offertisti monetaristi di Chicago. Il professor Alfonso è un economista conosciuto, noto, è un pezzo di dibattito pubblico permanente italiano, perché proprio dice no, naturalmente non si tratta di abbattere lo Stato nel sostegno alla domanda eccetera eccetera, quindi non è un cattivaccio di destro liberista, ma però il piccolo problema è che poi tra economisti ci si intende sul fatto che gli equilibri di bilanci e l'efficienza economica va perseguita. Allora questo diventa un punto di fondo, secondo me, per questo abbiamo proposto la sua intervista ai nostri ascoltatori, perché io non voglio giudizi sul sindaco De Magistris, che non è qui e naturalmente non sarebbe d'accordo con i suoi giudizi, voglio semplicemente l'impressione da un economista che si è impegnato civilmente e politicamente, perché fa parte del suo percorso, professor Alfonso, che ha messo la mano dentro sia con la giunta Iervolino che con questa giunta, e che poi alla fine si sente dire sì, vabbè, i tuoi ardi numeri, ma qua ci vuole un po' di fantasia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è un limite oltre il quale, a quel punto ha ragione l'onorevole Kolbe, il tedesco della nostra prima parte della trasmissione, voi italiani non ce la fate proprio, perché quando il guaio si è ereditato, perché nessuno può dire che l'ha fatto De Magistris, si è ereditato significa che di fronte alla gente uno ha il potere per dire guardate io devo prendere delle decisioni, amare ma le devo prendere, e anche in quel caso alla fine si dice caro professore Alfonso tu sarai dei nostri ma non c'è abbastanza fantasia, qua ci vuole fantasia, non intervenire sui numeri, alla fine i tedeschi hanno ragione a buttarci fuori dalla porta se ci butteranno fuori dalla porta, non è un po' così Alfonso? Purtroppo ci sono delle amare verità in quello che lei dice. Intanto la fantasia, la creatività dei conti è quella che naturalmente ci ha portato il sistema del nostro paese nella situazione in cui si trova. Purtroppo la politica rispetto ai tempi delle operazioni economico-finanziarie che sono delle volte lunghi o comunque non sono quelli della settimana o del mese e magari probabilmente nemmeno solo dell'anno, la politica delle volte non ci sta. Allora nel caso del Mezzogiorno noi abbiamo avuto gestioni clientelari nel passato in cui nell'epoca in cui il vincolo del bilancio non era così stretto come oggi, i fondi pubblici venivano utilizzati per comprare i voti e per comprare il consenso, e purtroppo adesso che almeno nel caso della città di Napoli si era profilata una straordinaria occasione, pare che i tempi della politica ancora una volta siano tempi stretti, si preferisce il consenso immediato, si preferisce il consenso popolare, come diceva lì prima, alle politiche di fondo, quelle che aggrediscono i nodi di fondo, i nodi del bilancio, i nodi delle organizzazioni del comune, delle partecipate, ma che hanno bisogno di tempi più lunghi. Sono queste le politiche che danno le risposte serie ai cittadini, che danno le risposte vere. La politica deve essere preparata per mettere in campo questo tipo di risposte, e purtroppo qui il problema non è destra o sinistra, perché la buona amministrazione non è né di destra né di sinistra, la buona amministrazione deve fare i conti con i vincoli dei bilanci, deve fare i conti con la qualità, con l'efficientamento dei servizi, deve fare i conti con quelli che sono gli interessi dei cittadini, e indubbiamente purtroppo la nostra classe politica, io di stagioni politiche ne ho viste diverse. Trovo difficoltà nelle insufficienze del sistema della politica in maniera ripetuta e per ragioni diverse. Ohimè, io condivido l'amarezza delle considerazioni finali di Riccardo e Alfonso, e comunque noi intellettuali dobbiamo poi rompercela la testa e continuare poi a indicare la strada dei numeri. Poi la politica bisogna cambiare dal basso, ma questo noi non bastiamo a farlo, possiamo semplicemente darci una fare e metterci la faccia, come ha fatto Riccardo e Alfonso, che per questo secondo me va ringraziato per la sincerità con cui ha servito gli stessi numeri che lo portano poi a insegnare all'università. Le scuole sono diverse, molto diverse, la mia e la sua, ma va riconosciuto e indicato come esempio chi ci mette la faccia e che poi sa ritirare la mano e dice sindaco riprendeti la delega, vai da uno che c'ha fantasia, va, vediamo con la fantasia i numeri come li mettete a posto. Eh sì, mettiamolo un po' questo Vengo anch'io no tu no, che diventerà, vediamo se nelle prossime settimane sale ancora lo spread come sale anche oggi, ma il Enzo Iannacci spero che diventi più comprensibile a voi tutti. Guardate, i Doors non li mollo manco morti, Jim Morrison, perché come vedete ci vedevo un po' lontano, vicino, non ci voleva molto, ma il Vengo anch'io lo capite di più cosa vuol dire, fuori dalla porta a mendicare, perché la politica sudditi così vi ha ridotto, e vi dirà che è colpa vostra, per questo ci vuole anche la patrimoniale. Però c'è una parte d'Italia politica e amministrativa soprattutto che tenta dal basso di rimediare ai guai, lo abbiamo visto ieri con due comuni in Friuli che dicono mettiamoci insieme e oltrepassiamo la soglia dei 6.500 abitanti insieme, oggi lo vediamo con altri comuni analoghi che hanno iniziative di questo tipo per mettere insieme servizi, risparmiare e non farsi travolgere, per così dire. Allora abbiamo due sindaci con noi, Marzio Favaro, il sindaco di Montebelluna a Treviso, buongiorno sindaco Favaro. Buongiorno a voi. E il sindaco di Villorba, sempre in provincia di Treviso, che è Marco Serena. Buongiorno sindaco Serena. Buongiorno a tutti. Allora Favaro, voi come Montebelluna cosa e con chi state facendo e con che obiettivo? Allora stiamo creando un'alleanza fra 7 comuni. Montebelluna è il cuore di questa operazione perché è il comune che ha più abitanti, 32.000, però gli altri comuni dell'Interland condividono con noi l'esigenza di fare sia un salto di qualità sul piano della gestione del territorio, perché ormai di fatto i nostri comuni si sono anche sul piano urbanistico fusi assieme, sia a mettere in piedi una politica che ci consenta di fare delle economie. Quindi, diciamo, sommando i sei comuni o aggiuntivi a Montebelluna, il bacino di riferimento per mettere insieme i servizi a quante decine di migliaia di persone arriva? Arriveremo a dare servizi a circa 80.000 abitanti, quindi una città di medie dimensioni. Di medie dimensioni. E l'idea è quella di economie con servizi che restano separati, oppure in prospettiva accorparli proprio i servizi? No, abbiamo già portato avanti un'analisi sui servizi che intendiamo unire e credo che ci sia uno spettro piuttosto ampio di possibilità. In prima istanza c'è la possibilità di fare economie di scala e quindi a parità di costi garantire migliori servizi. In seconda istanza c'è anche la prospettiva di una riduzione dei costi, perché mettendo assieme gli uffici evidentemente è anche possibile pensare e programmare una decompressione del peso dei lavoratori pubblici. C'è un modo appunto di gestire le piante organiche, che di solito sono il motivo per il quale si finisce per non mettere insieme servizi, di gestire le piante organiche in maniera non conflittuale e far abbattere nel tempo i costi senza buttare la gente per strada, secondo lei, Favero? Secondo me sì, io ho fatto esperienza 12 anni in provincia di Treviso, che provincia che peraltro è un ente virtuoso anche se in questo momento si sta banalizzando sul tema, e dico che nel pubblico vi sono ottime risorse umane e professionali, e credo che si dovrebbe anche puntare a questo, cioè a una rivalutazione delle risorse umane di cui dispone a evitare pubblico. La generalizzazione negativa, è ovvio che anche nel settore pubblico sì. Ci sono risorse e risorse, il problema è quello di non accomunarle, però abbiamo decenni alle spalle in cui tutte le volte si è detto vediamo di mettere una quota sempre più elevata e tanto più elevata di salario per produttività e merito, alla fine l'appiattimento purtroppo è finito per prevalere, ancora l'anno scorso la riforma è stata buttata indietro su questo. Sentiamo invece il sindaco di Villorba, Treviso, Marco Sereno, voi invece in che tipo di progetto siete impegnati, con chi e con che obiettivi? Allora, prima rispondo a una domanda fatta al collega e amico Favero, che saluto. È possibile rivedere le piante organiche? Sì. Villorba l'anno scorso ha rinunciato a due dirigenti, è un comune di 18.000 abitanti, ha rinunciato a due dirigenti. Gli stessi dirigenti hanno capito e quindi non hanno sollevato barricate e ci hanno aiutato nella riorganizzazione della pianta organica. In questi giorni, dal 1 agosto, rinunceremo addirittura a una posizione organizzativa che andremo a mutuare da uno dei tre comuni con cui stiamo ridisegnando un percorso di rivisitazione integrale e riorganizzazione dei servizi per creare un bacino da 35.000 abitanti. I sindaci degli altri due comuni, che sono, mi piace ricordarlo, Povegliano con Sergio Zappalorto e Fontano Veneto con Giorgio Granello, insieme a me hanno firmato un documento circa un anno fa che ci impegna proprio a riorganizzare le macchine e a preparare il sostrato per poi far scegliere i nostri cittadini se vogliono rinunciare a avere tre sindaci, tre giunte, tre consigli o meno. Insomma, in altri termini stiamo parlando di un progetto che potrebbe portarci a veramente alla creazione di un unico macro comune. Ecco, io credo che questa sia l'unica possibilità di salvezza che hanno in questo momento gli enti, perché con i tagli di bilancio che stiamo subendo le nostre macchine non saranno più in grado di erogare servizi se non quello di pagare gli stipendi ai dipendenti. Ma un'azienda, perché un comune alla fine deve erogare servizi, un'azienda non può trovare ragione di esistere semplicemente per pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Serena, posso farle una domanda fuori dai denti? So che nel suo caso un sindaco di un comune più piccolo è più facile la risposta, lei ha più contatto con i cittadini, non è mediato da una costosa macchina di partito a cui appartiene. Però perché invece in questi anni l'impressione che si è avuto da l'ANCI, da LUPI, dalle rappresentanze delle autonomie è stato quello di dire diciamo no ai tagli, i tagli torneranno indietro e alla fine tutto resterà come prima. Perché non c'è questa consapevolezza così diffusa di quello che lei ci ha detto così bene? Solo mettendoci insieme abbattiamo i costi perché non c'è più possibilità di fare altrimenti, perché ai contribuenti non possiamo chiedere Mi consento la battuta, qui in Veneto spending review si chiama conto della serva. Esatto. E allora, se qualcuno come noi nel nostro comunetto, chiamiamolo così, abbiamo saputo fare, ci si mette a tavolino e si cominciano a spuntare le varie voci di spesa. La pensa esattamente quando, come lei. E guarda, quando si arriva a tirare una riga e si vede che dei quattro soldi meno qualcosa con l'ultimo taglio, che il governo ci passa, che lo Stato ci passa, restano esclusivamente denari per pagare i pubblici dipendenti, esatto. E allora qualcosa di sbagliato c'è. Allora, conclusione di sindaco Marco Serena di Villorba, Treviso, e di Favero di Montebelluna. Proprio questa, una politica che non è capace di fare il conto della serva, come dice Serena e Favero, e che si autoalimenta e dice pagate di più, e che adesso darà la colpa ai cattivi tedeschi dello schifo che vi ha inflitto per decenni, va cacciata. E se vi dicono che le elezioni adesso vanno fatte dopodomani, perché così non c'è tempo per fare le liste diverse, perché così stiamo tutti con Monti, vi stanno prendendo per il culo. Questa è la mia opinione. Comunque, appuntamento a domani. Vengo anch'io? No, tu no. Anche domani ci sarà. Hey!